oslearning.com e grandi aziende come la Microsoft si sono dovute adeguare diffondendo gratuitamente Explorer o Windows Media. È gratis anche la televisione, quella di YouTube, con il suo gigantesco archivio di immagini di ogni epoca, e quella in diretta, offerta da siti come Cool Streaming, che attraverso il peer-to-peer consente di vedere sul computer le TV di mezzo mondo, calcio compreso. E ancora, si può telefonare gratis in tutto il pianeta con Skype, si possono vedere film corti e videoclip su siti come iFilm o film interi come su Jox. E si possono utilizzare centinaia di videogiochi, da quelli vecchi che si trovano sui siti di retro gaming a quelli recenti che sono reperibili sui principali portali internazionali. Quello del gratis è un movimento che è partito dalla rete, ma si sta allargando a dismisura. È sempre il terreno della musica quello dove si sperimentano le soluzioni più innovative, come hanno dimostrato recentemente i Radiohead e i Nine Inch Nails, distribuendo i loro nuovi album attraverso internet a offerta libera. Ma l'offerta si allarga di giorno in giorno, anche in ambiti finora non toccati da questi cambiamenti, e sono molti i gruppi di pressione che operano in questo senso, da quelli del Free Software Movement a chi lavora nel campo dei copyleft, ovvero del cambiamento delle leggi sul copyright. È il diritto d'autore come fino ad oggi lo abbiamo inteso ad essere messo in discussione. Nessuno vuole essere un pirata, ha sottolineato Lawrence Lessig, ordinario della facoltà di giurisprudenza di Stanford. Sono le regole che devono cambiare. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dal libro di Ernesto Assante, Copio dunque sono, Coniglio Editore, 144 pagine, 12 euro. Si è spento domenica scorsa all'età di 73 anni l'attore comico Gianfabio Bosco. Sulle pagine della stampa lo ricorda Riccardo Minigio, suo compagno per oltre 20 anni nel duo Rick e Gian. È stato un gran brutto colpo la morte di Gianfabio, del tutto inaspettata. Anche se non ci sentivamo spesso. Con lui è finita una parte della mia vita, dice Rick al telefono con un filo di voce rotta dall'emozione. Un sodalizio fortunato il loro. Rick e Gian hanno dato vita ad una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo leggero. Dal debutto, siamo nel 61, con la compagnia stabile della rivista del teatro Maffei di Torino, sino al ritorno teatrale con tre commedie tra il 2002 e il 2006. Riccardo Minigio, detto Rick, era stato attore ballerino con Erminio Macario, Gianfabio Bosco, Gian, aveva fatto da spalla a Mario Ferrero, il re dell'avanspettacolo torinese, ma da ragazzino era stato attore giovane e amoroso nella compagnia di Gilberto Govi, dove aveva lavorato insieme alla madre Anna Caroli e al padre Sergio Bosco. L'esordio del sodalizio, che aveva scelto il nome d'arte di Jerry e Fabio, fu al Crazy Horse di Parigi. Nel 65 la prima esperienza cinematografica con il film Ischia, Operazione Amore, coincide con il nuovo nome della ditta. Subito dopo, la televisione li scrittura per una serie di spettacoli di grande richiamo, Senza rete, Giochi in famiglia, Quelli della porta accanto, quindi ha inizio l'avventura teatrale. I due interpretano La strana coppia, Le farse di Dario Fo e Scusa, mi impresti tua moglie? Alla fine degli anni 70, Rick e Gian rallentano l'attività comune fino allo scioglimento, avvenuto nell'87. Gian si dedica alle sitcom televisive e agli spettacoli di rivista. Nel 2006 i due erano tornati insieme per l'ultima volta con la pièce teatrale Comunque vada sarà un successo, per due anni in scena al Teatro San Babila di Milano. Solo domenica notte Rick ha saputo dal comune amico Lino Banfi che la sua metà artistica se n'era andata per un aneurisma. Ora ne parla a fatica. «Sono tristissimo e amareggiato. Non so cosa dire. Non me l'aspettavo assolutamente. È successo tutto all'improvviso. Con Gian muore un pezzo della mia vita. Riaffiorano di colpo brandelli della nostra vita comune. Le angustie e i sacrifici iniziali, ma anche i tanti momenti belli, anzi, indimenticabili. Coetanei dalla classe 36 abbiamo diviso quasi tutto, anche se io sono torinese e lui era un fiorentino svezzato un po' a Genova e un po' a Torino, dove ci siamo conosciuti poco più che ventenni. Nemmeno a distanza di anni, Rick ha voglia di raccontare i motivi di una separazione che allora fece scalpore, ma che non ha intaccato il rapporto che ci legava. Siamo cresciuti insieme, insieme ci siamo sposati e quasi in contemporanea abbiamo avuto i figli, che come noi hanno convissuto per lungo tempo. Diciamo che a un certo punto ci siamo accorti che le nostre strade non coincidevano più. Ma poi c'è stata, chiamiamola così, la riappacificazione. Abbiamo trascorso troppi anni fianco a fianco per poterci reciprocamente dimenticare. Soltanto qualche mese fa, Rick e Gian avevano avuto la possibilità di tornare ancora una volta in coppia sul palcoscenico. Negli ultimi periodi ci sentivamo saltuariamente. Lui era andato a vivere prima a Roma e poi a Rapallo. Aveva intenzione di ritirarsi, probabilmente. Forse è per questo che non ha accettato la mia proposta di portare in scena I ragazzi irresistibili, commedia di Neil Simon. Non me la sento, mi aveva detto al telefono l'ultima volta che ci siamo sentiti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maurizio Ternavasio, Rick, con Gian, muore un po' della mia vita, dalla Stampa del 16 febbraio. Letture di Radio 24. Si conclude stasera l'edizione 2010 del Festival della Canzone Italiana. Ma cosa aveva spinto gli organizzatori a scegliere 60 anni fa proprio la città di Sanremo? Il festival nacque proprio a Sanremo perché la sede della Radio Nazionale era a Torino, le case editrici musicali a Milano e la città rivierasca costituiva un luogo di villeggiatura apprezzato dai benestanti delle importanti città del nord e un ideale punto di incontro. A offrire supporto logistico e materiale per l'organizzazione del festival fu la società che aveva in gestione il Casinò di Sanremo, in cerca di un'idea, d'accordo con gli albergatori, che potesse attirare turisti anche in periodo di bassa stagione. La posizione geografica di Sanremo, che gode di un clima temperato durante tutto l'anno, di un inverno mite e di una primavera precoce, oltre che di un paesaggio indimenticabile, è decisamente privilegiata. La città era chiamata anticamente Matuzia, dal nome della dea di origine asiatica Mater Matuta, signora del mare e dell'aurora, che diffuse nell'arco di golfo tra Capo Nero e Capo Verde un trionfo di fiori e di favori divini. Oppure, secondo un'altra tradizione, in ricordo del patrizio romano Caio Matuzio, che si era fatto costruire un'imponente villa in zona, riconoscendo le virtù climatiche e curative del ponente ligure. Sanremo nasce come insediamento di marinai, fortificato a qualche centinaio di metri dal litorale e arroccato sulla collina denominata La Pigna, per la sua struttura piramidale. È tuttora un borgo pittoresco, fatto di vicoli e piazzette, splendidi scorci, scalinate e archi di controscarico. Nella seconda metà del XIX secolo, la città scopre quella vocazione turistica e commerciale che ne contraddistinguerà la storia futura. Il nuovo centro, costruito intorno alla Via Nuova, poi Corso Vittorio Emanuele III e oggi Corso Matteotti, si arricchisce di numerosi alberghi e di prestigiosi palazzi. Nel 1874, l'imperatrice di Russia, Maria Alexandrovna, dopo un lungo e piacevole soggiorno, dona al comune una considerevole somma per adornare il Corso di Ponente, oggi Corso Imperatrice, con una serie di palme. Negli ultimi anni dell'Ottocento, Sanremo è meta turistica d'élite. Tra i suoi ospiti illustri, Alfred Nobel, Leone Tolstoi e il compositore Piotr Tchaikovsky. Nel 1905 la città si dota di un casinò municipale, grazie al finanziamento del banchiere Bartolomeo Acquasciati, che nel 1898 presta al comune una notevole somma per la costruzione dell'elegante sala da gioco, progettata dall'architetto francese Eugène Ferré e destinata inizialmente ad accogliere nelle sue ampie e luminose sale private, oltre ai giochi d'azzardo, feste e ricevimenti, spettacoli e banchetti. Sempre nell'Ottocento a Sanremo agricoltori, marinai, raccoglitori di limoni e olive si fanno floricoltori. Il fortunato clima rivierasco favorisce infatti la coltivazione floreale in pieno inverno, permettendo la realizzazione di veri e propri giardini tropicali. I fiori di Sanremo vengono esportati in tutto il mondo, diventando il simbolo e la principale attività economica della città. Trascorrere un periodo di vacanza o di lavoro a Sanremo è sempre un'esperienza piacevole. È certamente questo uno dei motivi del successo del festival e della vera e propria corsa alla trasferta in Riviera di giornalisti e capi servizio delle testate nazionali. Anche se, edizione dopo edizione, si assiste al richiudersi del festival all'interno del Teatro Ariston e a un progressivo spostamento verso Roma delle decisioni che lo riguardano, anche se accade addirittura di assistere a intere serate del festival senza nemmeno una ripresa degli esterni della città, e anche se gli stessi fiori della Riviera, una volta protagonisti assoluti delle scenografie festivaliere, grazie alle tante inquadrature che enfatizzavano nasturzi, gladioli, anemoni, ranuncoli e papaveri, hanno uno spazio più discreto, ebbene il Festival della Canzone Italiana non sarebbe pensabile altrove. Lontano da quella fascinosa cittadina del Ponente Ligure, dove la primavera arriva in anticipo, dove i maggiorenti delle città del nord industriale mandavano le famiglie a trascorrere i mesi più rigidi dell'anno, da quel luogo che mantiene incorrotta una certa atmosfera blasé dei tempi dell'operetta, il festival sarebbe destinato a scomparire, appassendo come un mazzo di fiori in un vaso privo d'acqua. Alla domanda quasi tautologica della più classica delle tante sigle del festival, perché Sanremo è Sanremo, potremo quindi aggiungere una seconda risposta. L'altro vero segreto, l'altra vera magia del Festival della Canzone Italiana era chiusa con ogni probabilità nello stesso luogo in cui la manifestazione è nata e continua a esistere. Sanremo è Sanremo, perché è una gara e perché è a Sanremo. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dal libro di Eddie Anselmi, Sanremo 1951-2010, 60 anni di Festival della Canzone Italiana. Panini Editore, 300 pagine, 9,90 euro.